Mix 24 di Giovanni Minoli. Ieri è morto Marco Pannella. Noi lo ricordiamo con un faccia a faccia di mixer del 1980, da cui emerge il carattere e la coerenza politica e umana di un grande leader. Giacinto Pannella, ha detto Marco, l'uomo contro. Laureato in giurisprudenza da universitario e presidente dell'Unione Goliardica Italiana. Nel 62 fonda il Partito Radicale, di cui diventa segretario e negli anni il simbolo vivente. 100 sigarette al giorno, un oratore instancabile, una dialettica schiacciante, il gusto difficile di non mollare mai. Negli anni 70 ci sono le battaglie per il divorzio, per l'aborto e poi per la fame nel mondo, la liberalizzazione della droga, l'obiezione di coscienza, la giustizia e i diritti dei disabili. Ama le provocazioni e i gesti eclatanti. In Parlamento porta Cicciolina, Toni Negri, che poi scapperà, ma anche Tortora e Modugno. Fonda il Partito Transnazionale, continua a dare battaglia a tutto e a tutti, anche agli stessi radicali. Teorico della non violenza, maratoneta del digiuno, infaticabile promotore di referendum. Di lui hanno detto che è narcisista, guitto e mitomane. Tutti però gli riconoscono buona fede, onestà e soprattutto un inossidabile carisma. L'abbiamo invitato a Mixer, questa volta non si è astenuto, anzi è venuto. Lo ringraziamo. Qualcuno pensa che il tuo vero ruolo, quello più congeniale, sia stato quello di presidente dell'Unione Goliardi Italiani. Che ne dici? Dico intanto che prima di ringraziarmi aspetta la fine. E dico in secondo luogo che se qualcuno perde tempo a pensare di questo, su questo lo lascio con questi pensieri, ma aggiungo anche che non amo i ruoli, né nella politica, né nella vita privata, né in Parlamento né a letto. Nel 72 al Corriere della Sera hai dichiarato: non sono un politico, ma mi ritengo un sociologo della politica. Cosa volevi dire? No, cosa voleva dire il Corriere della Sera che l'ha scritto? Io, quello, l'unica cosa che posso aver detto è che sarebbe interessante fare un po' di sociologia della politica, per esempio, vedere come un partito operaio, tra virgolette, come il Partito Comunista, è una classe dirigente di alto borghesi o di aristocratici. Hai anche detto: nella politica ho sempre creduto, mentre non ho mai creduto nella cultura, cioè? Lo hanno scritto, scusami Giovanni, non è che l'ho detto, ma forse volevo dire semplicemente questo, che o la politica è cultura, o coloro che pretendono di fare la cultura politica fanno solo della cultura serva della politica. Il tuo metodo preferito nel confronto sembra essere quello dell'aggressione verbale, dell'interlocutore, ma qualcuno dice che è un metodo che usi perché nascondi spesso l'assenza di contenuti. Cosa lasciamo ne dici? Di nuovo questo qualcuno con le sue supposizioni e diciamo che quello di parlare chiaro è un vizio antico ed evangelico, dire pane al pane, sì al sì, no al no, e ladro al ladro e assassino all'assassino, senza insulti ma con proprietà. Ecco, questo per quanto riguarda il metodo, però anche tu sei un politico, e allora cosa vuoi se non il potere? Sai, io ho una certa tendenza a ritenere che il potere lo vogliono gli impotenti in genere, siccome non appartengo a questa categoria voglio semplicemente semmai la forza di vivere, di amare, di essere amato, di creare e non di consumare. Sarà anche vero che non vuoi il potere, però hai flirtato un po' con tutti. La mia attività erotica fosse fatta da flirt con gente del genere, la mia vita sarebbe triste e il mio volto lo porterebbe. Ho fatto una cosa diversa. Come un laico che sono, ho voluto marcare pubblicamente che anche coloro che riteniamo nemici e avversari in politica devono soprattutto loro essere soggetti di dialogo con noi. Ti hanno accusato di tante cose, di essere un esibizionista, un narcisista, un guitto, un pagliaccio, un istrione, un buffone, un mitomane, un avventuriero, un provocatore, tante altre cose. Vox Populi o una macchinazione del palazzo? O Vox Dei, se Dio fosse arrabbiato con i radicali, ma non lo è. Dico semplicemente che hai dimenticato qualcosa e non so perché. Drogato, sterminatore di bambini e omosessuale. Perché li hai dimenticati? Macchinazione del palazzo. No, semplicemente paura e forse farsi di me uno specchio per le loro esistenze e i loro demoni interiori. Un politologo ha scritto un articolo dal titolo Pannella e Mussolini. Che ne dici? Dico che il politologo deve pur guadagnare qualcosa con i suoi articoli, ma soprattutto dico che se Mussolini fosse quel figlio di fabbro ferraio e di maestra, a lungo restato povero e socialista, andando esule a lavorare in Svizzera, in Austria e in Francia, e pagando per le sue idee e dando corpo a delle idee buone, quel Mussolini lì sarebbe sicuramente un elogio. Quanto all'altro riguarda gli antifascisti di adesso. non riguarda me. Nel tuo colloquio con Almirante hai detto: il fascismo è stata una grande cosa. Calamandrei ti ha subito accusato di apologia di fascismo, eppure tu dici di essere il difensore della Costituzione. Due cose. Io non colloquio, ma sono l'unico uomo politico che incalza anche col contraddittorio Almirante. Seconda cosa, ti devi essere sbagliato. Calamandrei è morto negli anni 50 e non credo quindi che possa aver detto questo. Hai anche detto: non c'è dubbio che la nostra cultura marxista-leninista sia divenuta inesorabilmente piccolo borghese. Cosa intendi? Voglio dire che finché ci sono stati dei dirigenti operai o contadini come Di Vittorio, si hanno fatto grandi lotte sociali. Quando sono arrivati dei burocrati e dei sacerdoti dell'ideologia, sono stati promossi a capo del nostro partito, più grande partito operaio, dei burocrati, dei piccolo borghesi. Un giorno hai detto a Pasolini: i vecchi fascisti in realtà chiedevano l'astensione dalla politica. Astensione uguale fascismo. Come la metti con il tuo invito in queste elezioni? Proprio in questo modo. I fascisti volevano e vogliono l'astenersi dalla politica, come molti regimi fascisti vogliono, per esempio, che il votare sia un obbligo. Noi abbiamo realizzato con l'astensione la più clamorosa delle forme di partecipazione politica, quindi antifascista. Hai detto: le regole nel giornalismo italiano sono regole da falsari e da bari. La gente infatti non sa nulla dei radicali. Lo pensi davvero? Questo l'ho detto nel 78, ma se vuoi un esempio, guarda la Rai TV. Ha detto che si poteva andare a firmare per il referendum e ha elencato i 10 referendum il giorno prima della fine del referendum stesso, della fine della possibilità di firmarli. Quindi, se non sono bari, dimmi tu cosa sono. Sono tue parole anche queste. Tendo a unificare su valori precisi. Quali? Ma io direi quelli semplici, antichi: libertà, giustizia, non violenza, amore, pace, democrazia. Questa litania un pochino smessa, ma della quale io ho il coraggio. Il secolo d'Italia, dopo la tua condanna dei cappisti di Via Rasella, da te assimilati ai terroristi di oggi, esultò. Amendola invece disse che avevi fatto un discorso fascista. Cosa ne pensi? Per pietà e per pietas non rispondo adesso ad Amendola, lo feci allora. Per quel che riguarda il secolo d'Italia, dico che ho fatto male ad esultare, perché ho semplicemente detto che la più grande delle epopee non può che avere delle pagine tragiche e tristi. I tuoi rapporti con questo Papa sono, da parte tua, pare, molto cordiali. Infatti hai detto di Wojtyla: è il Papa che ci voleva, Dio ce l'ha dato, guai a chi me lo tocca. Cosa vuol dire? Per la verità do una notizia. 5 mesi dopo, Papa Wojtyla, alla giunta di Roma che ha ricevuto solennemente, disse: Pannella, Dio ce l'ha dato e guai a chi ce lo tocca. Ma io intendevo dire un'altra cosa. Volevo dire che un Papa così combattente, così Giulio II, così che cavalca dei destrieri, è un Papa che mi piace, perché è un Papa che vincerà molte battaglie, ma sul piano della laicità e del liberalismo perderà quella fondamentale. Guai a chi me lo tocca. Ti sei più volte autodenunciato, è tutta la vita che ti proclami vittima, lo dici tante volte che alla gente non viene quasi più in mente di chiedersi se è vero. Dici che la Rai TV non ti dà spazio, però sei uno di cui si parla sempre e sei qui. Come la mettiamo? Sai, se si parla sempre di noi radicali è perché se andiamo una volta ci mettiamo il bavaglio e se ne parla per anni. Ma se mi consenti, non ho mai detto di essere vittima. Ho sempre dimostrato che il tentativo di fare di noi e della legge delle vittime non riesce, perché non siamo conniventi con i torturatori. Noi gridiamo se necessario. Dicono che nel partito la tua stella è in declino, è vero? Ma se io fossi una stella sarebbe possibile, sono semplicemente un compagno che alcuni amano di più e altri di meno. Perché allora hai reagito in modo furibondo alle prime critiche interne? Bada, credo che semplicemente se c'è stato qualcuno di furibondo erano i miei compagni che mi criticavano e mi hanno visto applaudirli. Quindi il partito è tuo e guai a chi te lo tocca? Guai a chi mi tocca questo partito al quale devo tanta parte della mia esistenza. Qualcuno dice che proponi solo referendum perché non sai elaborare veri programmi di gestione. Cosa questo rispondi? Qualcuno probabilmente è un mister reverendum, preferisce i reverendi ai referendum. Io rispondo che le battaglie di liberazione nel nostro paese passano attraverso l'abrogazione delle cattive leggi e che solo così Costituzione e Repubblica e anche diritti e qualità della vita del cittadino possono affermarsi. Ti hanno accusato con il referendum di giocare allo sfascio delle istituzioni. Cosa rispondi? Rispondo che noi siamo gente di governo, dei sentimenti e delle situazioni e governiamo anche la vita della città, lì dove cattive leggi le impediscono probabilmente pace e tranquillità. Però, potete firmare. Poi, come è accaduto anche per il finanziamento pubblico dei partiti e per la legge reale, questi referendum li perdi anche, perché non, esisti? Non metti nel conto il divorzio e non metti nel conto che eravamo l'1%, avevamo il 43% sul finanziamento pubblico e il risultato fu che la classe politica, un tantino spaventato, mandò a casa Giovanni Leone e lesse Sandro Pertini. Ti pare che li perda? Ecco, non ti senti in contraddizione? Prima inviti la gente a astenersi, poi, lo dici tu stesso, ti rovini la salute per far votare la gente. Io dico semplicemente, lo ripeto, che coloro che si sono astenuti, hanno votato bianco o nulla, i pensionati, senza lavoro, eccetera, sono gli unici che hanno partecipato in modo non nullo, con dei voti socialisti, anche alle scorse elezioni. E quindi costoro sanno l'importanza e chiedo a costoro di accorgersi che questa è una grande possibilità e conquistare 10 schede per poter mandare 10 messaggi ai potenti in difesa della loro e della nostra vita. Ecco, un'ultima domanda che forse non c'entra niente, ma in questa vita così complicata hai il tempo per l'amore? Ma ti pare che la mia vita sia complicata? Quella forza politica che parla delle notti e dei giorni, del sesso e delle altre cose, tu credi che quella forza politica potrebbe essere così forte e la mia vita così piena e ricca se non avessi la necessità costante di essere in amore, di vivere con e per amore? Credo, te lo accennavo prima, le notti e i giorni, i letti e i parlamenti sono luoghi tutti importanti e se lì non c'è il dialogo, libertà, responsabilità, amore senza ruoli, credo che lì non c'è un radicale che possa andare avanti. Grazie. Questo era Marco Pannella. E noi oggi raccontiamo la storia di un altro grande italiano, un grande e sincero anticonformista, Leopoldo Longanesi, Leo. E lo facciamo con un altro anticonformista, che è qui con me, Pietrangelo Buttafuoco, buongiorno. Buongiorno. Pietrangelo, per una volta sono io a dirti dove andiamo oggi, perché andiamo dentro il tuo ultimo libro, Il mio Leo Longanesi, appena uscito per Longanesi appunto, per celebrare i 70 anni della casa editrice. Un'immagine personalmente mi ha molto colpito ed è quella di te, piccolo, ad Agira, il tuo paese natale in provincia di Enna, che negli anni 60 aspettavi con ansia e trepidazione l'arrivo dei libretti della Longanesi. Ecco, cosa ti affascinava così tanto di quei libri? E forse le lame incrociate, era il simbolo, l'emblema, il logo della casa editrice di Leo Longanesi. E poi certo anche le riviste, arrivavano il Borghese e poi cominciavo a crescere e quello che mi affascinava era la potenza grafica, la sfacciata modernità e poi lo spirito di un vero ribelle, qual era Leo Longanesi che attraverso i suoi libri, la casa editrice che ha pubblicato dei testi meravigliosi, che in anticipo su qualunque Adelphi ha proposto i classici della filosofia, in anticipo su tutti ha portato il meglio della letteratura dei gialli, dei polizieschi, insomma era una bellissima festa anche perché sai, si sta in paese e tutto al più ci si aiuta con la musica. Comunque oggi, per ricordare i 70 anni della casa editrice fondata da Longanesi, sei stato scelto tu. E in questa scelta, proprio su di te che normalmente dividi, sono stati tutti d'accordo. Come ti senti? Intanto mi ha emozionato tantissimo, però non lo so se sono stati tutti d'accordo. Me ne sono accorto da un fatto, che i giornali istituzionali non ne hanno parlato, pur essendo Leo Longanesi fondamentale. E hanno storto sicuramente. Perché stanno leggendo. No, io conoscendo i meccanismi, sicuramente hanno trovato imbarazzo a poter dire di Leo Longanesi quello che loro non potranno mai essere. Ecco, Leo Longanesi scrive, mai come oggi tanti asini scrivono sui giornali. Mi stai dicendo che è sempre vero? Sono pagine perfino non solo di 70 anni fa, di 80, anche di un secolo fa, sono pagine dell'Ottocento eppure perfette per oggi. Chi avrà la bontà di sfogliare, di leggere, di godere di questa antologia si renderà conto che è attualissimo. Perché, per esempio, le critiche cinematografiche. La cinematografia nazionale vista come un insieme di cartoline illustrate incollate una dietro l'altra. Sembra la recensione della grande bellezza. E riguarda gli asini, lo diceva lui che all'epoca seppe essere fornace, seppe essere matrice di grandi giornalisti, cito tanto per nominare quelli minori, Indro Montanelli o Mino Maccari o grandi scrittori da lui creati, quali furono Giuseppe Berto, Vitaliano Brancati, Mario Soldati, ecco. E lui si poté permettere il lusso di dire questo, a maggior ragione oggi non potrebbe far altro che urlare dallo spavento. Basti pensare e vedere chi dirige i giornali oggi. Longanesi è stato un giornalista, un disegnatore, un pittore e un editore. Eclettismo a parte, qual è la qualità che ti ha colpito di più di Longanesi? La sua profonda, devastante malinconia. La malinconia però era anche molto ironico. Appunto. Appunto. Derivava da questo. Che il mio cuore affoghi in un bicchiere di rum. Senti, ma per esempio, lui è stato ricordato come spesso come un aforista, come un battutaro, ecco, però non era un battutaro. E allora ti chiedo, qual è la differenza tra lui, per esempio, e Flaiano? La differenza che c'è tra un artista, e Leo Longanesi fu un grande artista, e chi invece è un artigiano di quell'arte. Leo Longanesi è un grande capitolo perché è il forcipe che ha portato l'Italia nella modernità. Se esiste un linguaggio di sintesi veloce, di immagine, di dinamicità, è derivata tutta da Leo Longanesi, perché in lui c'è sia il bicchierino di Fernet come la Vespa, in lui c'è la pagina ottocentesca così come la freschezza del racconto giornalistico. Quando per esempio io vado in redazione al Fatto Quotidiano, entrando nelle stanze dei due direttori, in quella di Travaglio e in quella di Boffano, mi accorgo di un dettaglio che spiega tutto. In quella di Travaglio ci sono ovunque fotografie di Travaglio con Montanelli, sì. In quella di Boffano ci sono ovunque fotografie di Boffano con Eugenio Scalfari, e uscendo da quelle stanze, mettendo insieme la storia professionale di Indro Montanelli e la storia professionale di Eugenio Scalfari, mi riferisco all'unica radice che li accomuna, che fu il giornalismo di Leo Longanesi, che diede vita a quello che fece Montanelli dopo e diede vita poi con l'Espresso a quello che poi è stata Repubblica. E per questo è stato dimenticato? No, diciamo che appartiene alla ed è custodito alla memoria profonda della qualità, e la qualità ovviamente non coincide mai con la vulgata, però vedrai, questa antologia lo farà innamorare tantissima gente, perché leggendolo si accorgeranno che c'è tutto oggi in quel mondo di ieri. Un'ultima cosa ti voglio chiedere, Pietrangelo. Longanesi è anticonformista, è stato un frondista nel fascismo e un anti-antifascismo nell'antifascismo. Insomma, ma politicamente chi era Longanesi? Erroneamente si potrebbe dire un grande conservatore in un'Italia dove non c'è nulla da conservare. Era un romagnolo, mangiapreti, rivoluzionario, innamorato di Sant'Antonino da Padova, fu anche un ribelle innamorato dello squadrismo al punto che si favoleggiò di uno schiaffo d'Arturo Toscanini. Lui era Longanesi, e il Longanese è un carattere tipografico ben preciso inventato da lui che, quando scrisse la lettera alla figlia del tipografo, descrisse e raccontò come il momento perfetto di assoluta eleganza. Fu l'uomo elegante che l'Italia, cercando un italiano simile, non ebbe mai. Grazie Pietrangelo. Grazie a te. Il mio Leo Longanesi a cura di Pietrangelo Buttafuoco. Da festeggiare con la banda musicale. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Buongiorno ancora una volta dallo Festival de Cannes. Come è stato? Io bien. Sono contenta, Donatella, quindi lei è ancora a Cannes. Certo, ti ricordi che ti avevo detto che avevo fatto amicizia con Valeria Gallina? Valeria Golino. Ecco, scordatelo, perché non ne voglio più sentire parlare di lei, hai capito? Chi si crede di essere? Lo sai che non mi rispondeva più al telefono? Lo sai, sta maleducata? È strano. Che ha fatto? Che ha fatto? Le avevo solo chiesto se gentilmente mi faceva fare la doccia da lei, che io al mio albergo non c'ho il bagno in camera e, per essere precisi, neanche il bidet. Senta Donatella, andiamo avanti, parliamo del festival. Vabbè, comunque il festival è divertentissimo e io mi sto vedendo un sacco di film. Ieri, per esempio, ho visto un film che non ci ho capito una mazza, però si mangiava gratis. È iraniano, si chiama Inversion, e parla di una figlia che ha la mamma con problemi respiratori. Hai capito? È come se io faccio un film sulla colite di mamma mia. No, no, no, no, Donatella, guardi che non è esattamente... Non è la stessa cosa. Comunque, e non credo neanche che la trama sia esattamente così. Sei scema? Pensi che c'ho tempo di raccontare trame sbagliate? Comunque ho visto pure un film due palle coreano, che stanno sempre zitti. E poi però mi è capitato un film che mi è piaciuto. Per una madre deve essere molto doloroso, ma Antia la prega di accettarlo. Sua figlia ha scelto il suo percorso di vita ed è un percorso di cui lei non fa parte. Non vedo Antia e non so niente di lei da 12 anni. Hai capito? C'è questa mamma che si deve trasferire dal fidanzato. Però mentre fa le valigie le tornano a galle pensieri che la figlia se n'è andata da 12 anni e lei la vorrebbe rivedere. Ora, secondo te, ti pare che per accorgerti di tua figlia devi mettere a posto le cose? Allora ho pensato, forse è metà anfora. No, Donatella, non ho capito. Cioè, credo di aver capito. Lei vuole dire che è una metafora? Questa è scema. Vabbè, no. Hai capito? Il film comunque si chiama Giulietta, non lo so. E l'ha fatto Dovar. Almodovar. Sì, Dovar è il cognome. No, Donatella, l'ha fatto Almodovar. Appunto, io ho detto. Va bene, Donatella. Comunque, alla fine succede che un fatto improvviso rimette in discussione tutto e basta. Come basta? Senti, fai il solito la curiosa e poi non mi fai dire la fine. Quindi non ti dico la fine. Va bene, vale la pena vedere... Ho gli scatti. Senta, ma vale la pena vedere il film di Almodovar, Giulietta? Secondo lei può vincere? E che ne so io, che faccio le schedine di chi vince? Sono una maga io? No. Se Valeria Gallina, che sta nella giuria, non mi litigava, ora forse potevo dirti le cose. Comunque, a me il film è piaciuto, quindi vale la pena, perché tu calcola che io uscivo dal film coreano, Duvalle, e quindi questo mi è sembrato anche allegro, anche se poi a un certo punto si piange, capito? Tu piangi, ho capito, è tutto chiarissimo, ma lei intanto pensa di tornare in Italia? Guarda, io penso di tornare perché mi dà un passaggio Woody Allen, che viene a Roma. Sarebbe Woody Allen le dà un passaggio a Roma? Sì, illumina un passaggio forse. Ah, brava Donatella, bene, grazie allora. Prego, ma secondo te faccio pace con Valeria Gallina? Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti mister dopoguerra, pettinate come lei. Buongiorno Alessandra Cravetto. Ciao Ale, buongiorno. Ale, che consigli diamo alle smamme oggi? Allora, oggi le vacanze si avvicinano, tra meno di un mese le scuole sono finite e parliamo dei viaggi in macchina. Cioè, dove vuoi arrivare? Parliamo di macchine oggi? No, voglio arrivare, viva la meta, ma parliamo di viaggi in macchina, insomma, l'incubo dei viaggi in macchina. Perché cosa gli fai fare ai bambini che sono già sovreccitati all'idea di andare al mare nelle ore infinite di viaggio? A noi ci facevano ripassare le tabelline, ci facevano leggere i cartelli stradali. Adesso gli molli l'iPad e non glielo togli finché non arrivi a destinazione. E quando arrivi, loro sono belli che fritti. Esatto. Torna un modo bello intelligente per fargli trascorrere il tempo mentre sei in macchina ed è una app che si chiama Audible ed è un'idea di Amazon, insomma una specie di audiolibro con però 12.000 titoli che ti offre Amazon da ascoltare, per cui ci sono fiabe ad esempio come questa qui. Mi chiamo Mary, ho 7 anni e vivo in una grande città, la capitale della Francia. Avete capito, vero? Non è adorabile questa vocina? Per me è la male. Città più bella del mondo. Ci sono monumenti importanti di molti, molti anni fa. Questo al primo autogrill, la lasci lì. E infatti ti volevo dire, dipende dalla lunghezza del viaggio. Perciò, quando la scorsa estate ho visto quel piccolo paesino di montagna che dove delizia. Ho trascorso piccolo. Le vacanze, ero molto, molto stupita. Molto, molto. Al paesino di montagna, se continui a parlare così, non ci arrivi viva. Mai, mai, mai. Però ti voglio anche dire che l'idea è bella. Quindi, ve lo ripeto, questa app si chiama Audible, dove potete ascoltare un Audible. Sacco... Audible. Funziona sola sull'Audi, quindi? No, funziona l'Audi, la Fiat, la Peugeot, la Citroën. Che marca c'hai tu? No, io non ce l'ho, però mi è venuto in mente allora che magari funziona anche, non so, sulla Ferrari. No, la Ferrari in questo caso è tagliata fuori, non si può, perché ce lo spiega benissimo Bisio. Anche perché i bambini diciamoci la verità, sono di sinistra. Sei d'accordo? Ma sono conservatorissimi, sì, sì, sinistra, bambini. Senza alcun dubbio, e non soltanto per via dei pugnetti stretti in segno di precoce protesta. I pugnetti stretti. Per questo sì. I bambini sono pugnalzati, di sinistra. Semmai. Perché amano senza preconcetti. Senza distinzioni. Perché quelli di sinistra amano di sinistra senza preconcetti. Quelli di, forse quelli di destra non amano allora. Ti guardano. Questo spiega tante cose però. E loro le bevono, tutti contenti, sorridono, si fidano. La bicamerale, sì dai. È un po' datato come file però. I bambini questo sono di sinistra perché stanno insieme, fanno insieme, litigano insieme. Per questo è attualissimo. Questo molto, non è datato, è buono. Perché se gli spieghi cos'è la destra, piangono. I bambini sono di sinistra perché se gli spieghi cos'è la sinistra, piangono lo stesso. Ma scusa, se fossero di sinistra, perché piangono sempre? No, ma il problema qui non è sinistra, destra, Ferrari, bicicletta, Panda, perché abbiamo visto che con qualsiasi mezzo si muovesse il sindaco... Motorino, non ha risolto più di tanto quelli che erano i problemi di Roma. Beh, a Roma una delle grandi questioni irrisolte, adesso, ce la racconta, come sempre a suo modo, la Sora Cesira. Siamo romani di oggi che imprecano sull'Olimpica perché il raccordo anulare è troppo lontano. La strada è la nostra prigione, noi senza punti patente, per un semaforo verde passiamo sopra un parente. E no, no, non ci può bastare la metro B, la metro A. Per noi romani di oggi, schiavi di questa città, è meglio il dorso di un mulo piuttosto che l'attac. Poi ci raccontano storie da gran facce di culo, tipo che il domani sarà un po' meno duro, perché qualcuno ci darà, perché qualcuno finirà. Quella metro promessa che da Piazza Venezia può arrivare persino a Castelli, che fra baldi e mazzette di ladri e furbetti si è magnata già 4 miliardi. Quella metro promessa che fra sprechi e tangenti è rimasta sul nostro croppone. Ma vuoi mettere il lusso, vuoi mettere il record, costa un botto e manco è finita. Buongiorno Franco Schipani. Buongiorno Alessandra Fiori. Reprimendo, attento, ascolta, dico reprimendo chi da solo denuncia e combatte. Franco, ma mi hai messo 99 poste? Assolutamente ma, sì. Wow. Ma quanto tempo è passato da quel 1991, dove erano già l'espressione di questo centro sociale occupato e autogestito chiamato Officina 99. Poi insomma, come tu sai, io so benissimo, ma di certo, strada certo. Ne hanno fatta veramente tantissima, sono diventati i re della reggae muffin. Comunque, volete vederli questi 99 posse? Questa sera Hiroshima Mon Amour, via Bossoli 83 alle 22, non ho capito perché no alle 21. Perché loro sono i 99 posse, Franco. E perché sono a Torino. Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso, ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade. Beh, in effetti Franco, scusami, non puoi cercare l'antiquariato a via del Corso. Assolutamente, cioè, no. Qualcosa non di più ti costa, qualcosa di più ti costa. No, ma non lo trovi proprio. Senti, sai che Nicolò Fabio è stato il mio primo corrispondente radiofonico da Los Angeles, quando ancora non faceva il cantante, conoscevo il padre, molto simpatico, grande produttore discografico, fra l'altro, e mi disse, sai, c'è mio figlio lei che si interessa di musica, abbiamo fatto una collaborazione bellissima per 2 anni, lui mi mandava tutti i pezzi da Los Angeles, io da New York lì. Ti divertivi, Ti divertivi. E li mandavamo in onda in Italia con grande, grande successo. Poi figurati come sono stato contento quando lui finalmente è diventato un grande cantautore di successo. E comunque Nicolò Fabi domani al Teatro Augusteo, e qui torniamo a Napoli, piazzetta Duca d'Aosta, alle ore 21. È stata una serata tremenda. Quello che ho passato io lo sa soltanto Dio. Franco, che una serata tremenda. Tremenda. Una serata tremenda da dimenticare. Ci sono delle voci che quando tu le senti sai subito chi sono, no Alessandra? E tu mi insegni che è? È il papà di Christian De Sica. È il papà, è Vittorio. È Vittorio. Non parliamo di Vittorio per oggi, parliamo invece di una coppia meravigliosa. Lui è il maestro del neorealismo italiano. Lei, beh, un'attrice svedese alla quale Hollywood fa la corte da sempre. Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, che erano entrambi sposati. Quindi dramma, Alessandro. Dramma assoluto. No, sì, uno scandalo assoluto. Sposati adesso amoreggiano. Ma non se ne parla. Non succede mai poi. All'epoca succedeva, però non se ne parlava. Oggi non se ne parla, ma succede. Ok. No, se ne parla anche. Se ne parla anche? Sì, sì, sì. Ok, comunque erano legati da questa grandissima passione per il cinema. E da lì poi è nato un amore che appunto suscita uno scandalo enorme anche nel loro mondo. È la storia travolgente di una passione veramente unica. Ce la racconta Giovanni Minoli. Restate in ascolto.